centrocampo, comunque da tre quarti, un sinistro al volo impressionante. Tutti convocati di Giovanni Capuano. Soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! E oggi parliamo di soldi, parliamo di calciomercato, tutti convocati per fare il punto su quello che ci attende nelle prossime due settimane, perché siamo arrivati davvero alla stretta finale, tante trattative, tante settimane, anche trascorse inutilmente, adesso si fa sul serio, la data limite è quella del 2 settembre, quest'anno molto accadrà davvero nelle ultime ore come tradizione, molto accadrà negli ultimi giorni e quindi davvero nelle prossime ore. Io saluto Marco Belinazzo, collega del Sole 24 Ore, esperto di questioni finanziarie legate al calcio. Ciao Marco. Ciao Giovanni, buongiorno. Finalmente siamo arrivati alla stretta finale, non se ne può più di questo mercato lunghissimo, in gran parte inutile, perché poi la verità è che si fa tutto quasi nelle prime due e nelle ultime due settimane e in mezzo ci sono tante chiacchiere. Sì, difatti potrebbe essere interessante magari ripensarlo questo calciomercato, che fa parte, se vuoi, dello show business ormai legato a questo sport. È un momento di grande fibrillazione non solo per le società ma soprattutto per i tifosi, che hanno giustamente il diritto di sognare, in Italia un po' meno, però forse sarebbe il caso, ecco, di concentrare di più le finestre di mercato, perché davvero insomma è estenuante seguire certe trattative che poi si giocano alla fine, come giustamente ricordato, all'inizio, alla fine, quando si cerca poi di trattare sul prezzo come in qualsiasi suc. Sì, perché alcuni presidenti hanno parlato di chiudere tutto in un paio di settimane, secondo me questa è un'esagerazione, però ad esempio pensare di ridurlo ad esempio ad un mese, questa potrebbe essere una soluzione. Si potrebbe anche creare un format che magari interessa le televisioni ancor più di quanto oggi sono costrette a parlare di mercato. È vero che tiene in piedi i palinsesti per tutta l'estate, soprattutto negli anni dispari come questo, che sono anni senza mondiali, senza olimpiadi, senza europei. Però alla fine potrebbe anche essere un modo per valorizzare anche il momento del mercato, chissà che non ci pensino prima o poi i nostri dirigenti. Noi però, Marco, vogliamo fare un po' il punto su questo primo mese e mezzo ufficiale di mercato, un mercato che mi sembra di poter dire ha dato segnali contrastanti per il calcio italiano. Cioè, da una parte c'è il gap che si allarga con il resto dell'Europa e in particolare con le grandi di Spagna, con la Germania, con le grandi d'Inghilterra, dall'altro lato per la prima volta dopo tanti anni abbiamo da registrare il rientro di qualche giocatore di primo livello. I nomi sono quelli di Tevez, Gomez, Llorente, lo stesso Strootman, che era cercato anche da altre squadre e invece è finito a Roma. Dobbiamo brindare o no? Beh, io direi che c'è il classico bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, non per usare, come dire, un'espressione stantia, ma proprio perché sinceramente non vedo io un rilancio del calcio italiano come pure è stato scritto. Sicuramente il calcio italiano doveva diventare in questi anni un calcio da esportazione, vale a dire un calcio capace di valorizzare determinati talenti giovani per poi rivenderli bene all'estero, e questo è stato fatto. Sono stati sì presi dei giocatori importanti, insomma giocatori di prima fascia, però sinceramente non nel momento clou della loro carriera. Potranno ancora dare molto e mi auguro che sia così, però ecco, non sarei lì a brindare. Una piccola inversione di tendenza forse possiamo leggerla attraverso le trattative di questo calciomercato, ma per il rilancio vero e proprio c'è ancora da aspettare. I fondamentali ci dicono altro. Sì, ho dimenticato, Marco, ovviamente Higuaín nella lista dei nostri top certo. player che sono arrivati. Higuaín che rappresenta un'eccezione perché con i 40 milioni pagati dal Napoli è l'unico colpo in entrata del calcio italiano in questa estate che è entrato nella top 10 degli affari conclusi. Però il Napoli è un'eccezione, dopo ne parliamo. Siamo diventati venditori, proviamo a dare qualche numero. Negli ultimi 3 anni abbiamo venduto giocatori all'estero per oltre 1 miliardo di euro, nei 3 anni precedenti, dal 2007 al 2010, era stato meno della metà. Nello stesso arco di tempo il saldo rispetto all'Italia, quindi i soldi che abbiamo fatto circolare all'interno della nostra Serie A, stiamo parlando dei club di Serie A, è rimasto pressoché invariato, intorno ai 600 milioni di euro. Quindi possiamo dire che vendiamo all'estero negli ultimi 3 anni il doppio di quanto vendiamo in Italia. In questa stagione, fino alla fine di luglio, per fare un esempio, 205 milioni incassati dai nostri club per operazioni all'estero, 75 circa dall'Italia. Mi sembra che questa sia la fotografia della situazione oggi del nostro calcio. Sì, ripeto, è un calcio che per necessità ha dovuto in parte all'inizio svendere il proprio patrimonio, penso alle operazioni Thiago Silva e Ibrahimovic, che almeno furono vissute così dai tifosi. Quest'anno mi sembra ci sia più come dire, la percezione di una capacità invece di fare affari in positivo, cioè di vendere giocatori, penso naturalmente a Cavani ma anche a Marquinhos della Roma, che sono stati in qualche modo scoperti, valorizzati e, ti ripeto, venduti bene all'estero con la possibilità poi di rinforzare le squadre. Tra l'altro, in queste cifre che ricordavi tu, credo che una fetta importante nella bilancia di pagamenti sia quella che si muove un po' sull'asse Serie A Paris Saint-Germain, perché tanti di questi soldi siano arrivati proprio dal club parigino catariota, che ha dato delle soddisfazioni a molti presidenti di Serie A. Sì, siamo circa 250 milioni di euro. Purtroppo la festa è finita perché è partito Leonardo. Ho l'impressione che il Paris Saint-Germain si indirizzerà anche su altri mercati, non solo su quello italiano. Però abbiamo beneficiato di questa pioggia di soldi che certamente nelle ultime 3 estati ha aiutato molti club a sistemare i conti, non soltanto il Milan, basti pensare al Palermo, l'Inter con Thiago Motta venduto a gennaio a 11 milioni di euro, una cifra fuori mercato rispetto a quello che era in quel momento il valore del giocatore. C'è un'altra immagine che parla invece delle difficoltà del nostro calcio ancora, e secondo me è l'immagine delle estenuanti trattative di Galliani, costretto per giorni, per settimane a discutere quasi del milione di euro, ma anche meno, per gli Aic, per Honda. Queste sono trattative che fino a un paio di anni fa, se ritenute importanti, e lo sono dal punto di vista tecnico per il Milan, Galliani avrebbe chiuso in mezza giornata. Penso di sì, e ti dà un po' la percezione di quella che è stata una manovra di aggiustamento da fare in tempi rapidissimi per molti club, in particolare per i due di Milano, che hanno oggettivamente vissuto per anni al di sopra delle proprie possibilità. Ma tra l'altro io cercherei anche poi di non farne una colpa eccessiva, nel senso che finché non esistevano i paletti e le regole del settore finanziario, c'era anche, a mio avviso, la legittimità di queste spese folli, nel senso che erano liberi i proprietari di spendere qualsiasi somma. Con il settore finanziario vedremo poi l'applicazione, che mi aspetto dura nei confronti dei club che hanno fatto orecchie da mercante, altrimenti vedremo cadere tutta l'impalcatura che la UEFA ha costruito in questi 5 anni. Ma in ogni caso, ora che ci sono questi paletti, c'è la necessità di creare dei modelli di business, dei modelli aziendali con degli equilibri nei conti. C'è proprio la necessità di cambiare completamente modo di fare. L'inversione può essere violenta come è stata quella di un anno fa del Milan. In realtà era un processo, quello del Milan, che era già iniziato da qualche stagione con i mancati rinnovi per portare a scadenza tutta la vecchia guardia e poi tagliare gli ingaggi o semplicemente non confermarli. L'anno scorso c'è stata la doppia cessione, che è stato un po' il simbolo del cambio di rotta. Però in tanti si chiedono, ad esempio, perché in questo momento il Milan, pur con i conti strutturalmente in equilibrio, non sia padrone del suo mercato in entrata. La risposta forse può essere che quei conti sono in equilibrio grazie alle plusvalenze e quindi il mercato in entrata va in qualche modo finanziato. Il Milan è passato tra il 2011 e il 2012 da un meno 70 a un meno 7, uno sforzo importante che è stato compiuto. Ora può puntare con serenità ai prossimi anni, può guardarli con serenità, essendosi messo in linea con il fair play finanziario e per esempio avendo incassato oltre 50 milioni dall'ultima Champions League, un incasso che come quello della Juve mi auguro per le tre società non possa ripetersi, nel senso che mi auguro che il Milan poi acceda alla fase a gironi e quindi non si verifichi la situazione dell'anno scorso. Sì, perché dobbiamo spiegare che quello che è successo l'anno scorso è una situazione di assoluto favore per Milan e Juventus. La Juventus addirittura ha incassato più del Bayern di Monaco, che ha vinto la Champions League, ma devono ringraziare entrambe l'Udinese, che si è fatta eliminare nei preliminari e quindi ha consentito di dividersi quella grandissima fetta degli introiti dal mercato televisivo soltanto in due e non in tre o in quattro come accadeva fino a un paio di anni fa. Esattamente. Però dobbiamo tifare per portare avanti tre squadre, perché poi c'è il discorso legato al ranking, alla possibilità remotissima in questo momento di recuperare la quarta squadra in Champions League, quindi dobbiamo sperare che il Milan vada avanti. È chiaro che c'è un discorso egoistico magari che potrebbero fare le due squadre, sono sicuro di partecipare, cioè Juventus e Milan, Juventus e Napoli, e che quindi si augurano in qualche modo che il Milan resti fuori, ma è chiaro che se facciamo un discorso di sistema è fondamentale, ripeto, che almeno il Milan insomma acceda alla fase a gruppi e che magari almeno due squadre su tre possano lottare nei playoff, nella fase degli scontri diretti, per un discorso insomma, in generale di sistema, e perché quei soldi che vengono a mancare poi in Italia legati ai premi, ai risultati, arrivano in altri campionati che si rinforzano e quindi è un po' il cane che si morde la coda. Per chiudere il discorso sul Milan, è chiaro che il Milan ha fatto un grande sforzo, ha recuperato un equilibrio finanziario accettabile, non avendo più finanziamenti dalla Fininvest deve conservare questo equilibrio proprio perché non ci saranno magari l'anno prossimo gli stessi introiti di quest'anno, per cui c'è cautela e soprattutto il Milan si muove con estrema prudenza proprio perché non ha la certezza di partecipare alla Champions. Ecco, io immagino insomma che se dovesse acquisire questa certezza magari con un buon turno di andata, magari qualche movimento in più, qualche milione in più, Galliani possa permettersi di spendere. Sì, qualcosa accadrà dal 28 agosto in poi. A proposito di squadre che in parte sono in difficoltà, io ti cito la Juventus con qualche numero. Ha fatto mercato in ingresso, ad esempio, però in questo momento i sei attaccanti nella rosa di Conte, Tevez, Llorente, Vucinic, Giovinco, Matri, Quagliarella, tutti insieme costano sul monte stipendi circa 40 milioni di euro lordi, che è quasi la metà, è meno della metà, ma insomma intorno al 40% del monte ingaggi complessivo. Credo che la chiave sia qui, per cui la Juventus fa fatica in queste ultime settimane a regalare a Conte quel tassello, quei due tasselli che potrebbero ancora servire. Cioè, bisogna vendere, tradotto, nessuno si può permettere, nemmeno la Juventus, che ha il progetto stadio, che ha vinto, che farà la Champions, che esce da un'annata straordinaria per ricavi, può permettersi di svendere chi a questo punto è costretto a cedere. Beh, la Juventus ha fatto degli investimenti importanti anche sulle infrastrutture, ma non li ha fatti per rinforzare la squadra e tornare a vincere in Italia e competere in Europa. Lo sappiamo, questo ha comportato per esempio nel 2012 un rosso che si avvicinava ai 50 milioni. Quest'anno il bilancio chiuso dal 30 giugno 2013 dovrebbe chiudersi con un rosso intorno ai 10 milioni, quindi anche la Juve ha aggiustato i conti. Quasi fisiologico. Parlando di calcio. deve ora muoversi con cautela. Ha fatto due grandi operazioni, quelle che sono relative appunto ai due attaccanti in entrata. Se andiamo a guardare il rapporto tra qualità e prezzo, sono due operazioni ottime. È chiaro però che si porta dietro il fardello di tanti contratti onerosi e con un mercato bloccato in Italia per quei giocatori, penso a Matri e Quagliarella, che magari preferirebbero restare in Italia visto che c'è il mondiale piuttosto che andare all'estero, per cui diventa difficile. Matri e Quagliarella sono insieme circa 10 milioni di euro lordi, euro più euro meno, quindi capisci che insomma fanno il monte ingaggi credo all'80% di quasi 12-13 squadre della Serie A, quindi monte ingaggi intero, per cui c'è questa necessità. La Juve ha fatto bene a muoversi in anticipo ad arricchire la rosa avendo degli affari da concludere, però è chiaro che ora ha questa necessità e fare ulteriori colpi in entrata sarebbe di fatto un vero peccato, significherebbe riportare l'asticella insomma verso il rosso in maniera la verità più, è che in questo momento è impossibile. Conte si deve rassegnare, vuole l'esterno, però si deve rassegnare. Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià. Però come un pascià non viviamo noi, non vivono le nostre società di calcio, vivono certamente quelli del Real Madrid, Marco Bellinazzo, Sole 24 Ore, un'estate scoppiettante, operazioni. Io ho fatto due conti, tra Bale e il rinnovo di Ronaldo siamo intorno ai 400 milioni di euro impegnati per i prossimi 5 anni, 400 milioni di euro. In tanti si stanno chiedendo come faccia il Real Madrid a permettersi tutto questo. È vero che ha un fatturato record, però la verità è che se lo può permettere. Beh, è stato fatto un percorso per quanto riguarda Real e Barcellona strabiliante negli ultimi 10 anni. Pensiamo che Real Madrid e Barcellona avevano un fatturato intorno a 150 milioni, 200 milioni 10 anni fa, addirittura inferiore a quello delle big italiane. In 10 anni questi fatturati sono più che raddoppiati, sono le prime due squadre per fatturato. Real Madrid ha sfondato l'anno scorso la soglia dei 500 milioni, ora siamo con questo a oltre 520, il Barcellona ci si sta avvicinando a 490, hanno fatto un percorso molto positivo e fruttuoso, riuscendo peraltro a produrre anche utili, mediamente producono 20-30 milioni di utili all'anno. Che sono squadre diciamo che hanno soprattutto un cash flow, cioè un'entrata economica costante grazie allo sfruttamento dello stadio, grazie a ricchissime sponsorizzazioni, grazie soprattutto al fatto che vendono individualmente i diritti TV in Spagna, a differenza che nel resto d'Europa, anche se appunto questo comporta che il Real e Barcellona di fatto si mangino quasi la metà, se non oltre, dei diritti TV spagnoli. Sì, stanno di fatto soffocando il calcio spagnolo, però Real Madrid e Barcellona certamente vivono bene. Per far capire alla gente a casa che cosa significa comunque una politica accurata, abbiamo detto i ricavi del Real Madrid sono esplosi negli ultimi 10-12 anni, cioè da quando Florentino Perez ha cominciato questa politica di andare in giro per il mondo, prendere i migliori, fare collezione di figurine. La sua scommessa è sempre stata: in questo modo io farò crescere i ricavi, il fatturato, farò diventare il Real Madrid un fenomeno a livello mondiale. È una scommessa che ha pagato, ma nello stesso arco di tempo, negli ultimi 10 anni, il Real Madrid, questo pochi lo sanno, ha investito 200 milioni per sistemare lo stadio, ne ha investiti quasi 150 per la cittadella dello sport, che poi rappresenta l'origine di tutte le fortune recenti del Real Madrid. Cioè sono investimenti non soltanto tanto in calciatori, non hanno comprato solo Ronaldo, Figo, Kakà, Cristiano Ronaldo, e prenderanno Bale e tutti gli altri. Sono politiche che in qualche modo vanno a toccare tutti i tasti per far crescere una società. Questo è inevitabile, è cosa che in Italia, al di là delle chiacchiere, poi nessuno sta seriamente perseguendo, c'è una politica di diversificazione delle entrate. Se proprio vogliamo trovare un neo in questa crescita del Real Madrid, è proprio quell'operazione immobiliare che ha permesso all'inizio degli anni 2000 di trasformare i terreni attorno allo stadio in terreni edificabili, una concessione del comune di Madrid, su cui proprio questa primavera la Commissione Europea ha acceso un faro. Vedremo quale sarà l'esito, perché insomma, sì, io non oso pensare cosa sarebbe accaduto in Italia, dove ad esempio l'operazione sull'area della Continassa della Juventus è stata accompagnata da polemiche feroci, anche giustificate, perché è giusto che poi il cittadino voglia vedere fino in fondo la correttezza e la trasparenza dei conti, e che voglia garantirsi che non venga fatto un favore a nessuno, però ad esempio a Madrid stiamo parlando di un'operazione da centinaia di milioni di euro che fatto ha consentito al Real di ripartire, di crescere. Pensa che quell'anno il Real Madrid ha avuto un incremento di fatturato di 400 milioni in un solo anno. Questo ha permesso la nascita dei Galacticos, politica poi che salvo qualche anno è stata perseguita in tutte queste stagioni, e che ha portato alla possibilità del Real Madrid di vendere i diritti TV in tutto il mondo, in particolare nell'area latina ovviamente, ma non solo, di aumentare a dismisura le proprie entrate dal merchandising, in generale dalle sponsorizzazioni. Con Emirates è stato appena firmato un contratto da 30 milioni all'anno più bonus, tanto per citare l'ultimo di questi contratti multimilionari, e quindi questo ha permesso di avere una società che comunque produce utili, ripeto, un fatturato enorme, questo con un'attenzione comunque ai costi, perché gli ingaggi di Real Madrid e Barcellona mediamente non superano il 50% del fatturato, e tanto per dirne una, il Barcellona che ha appena annunciato quelli che sono i propri conti relativi al 2013, anche qui con utili di 30 milioni, un fatturato ripetiamo quasi 490 milioni, ha dichiarato di iniziare da quest'anno una politica di ridimensionamento del debito, che è intorno ai 330 milioni. Questo debito dovrà essere portato nel giro di alcune stagioni a 200 milioni, quindi con risparmi di 50-60 milioni all'anno sul debito, e i risparmi che si otterranno dal pagamento degli interessi saranno utilizzati per la ristrutturazione del Camp Nou, e quindi sarà reso ancora più fruibile 7 giorni su 7, come accade per il Santiago Bernabeu e per i grandi stadi inglesi, e questo naturalmente significa allargare ulteriormente il giro d'affari. Quello che la Juventus sta cercando in qualche modo di fare in Italia è che purtroppo nessun'altra squadra italiana ha ancora la capacità concreta di fare. Sì, manca la legge, ho l'impressione che non manchi solo quello, perché poi qualche esempio c'è, ad esempio c'è la Juventus, c'è l'Udinese che tra un anno avrà il suo gioiellino e quindi entrerà nel futuro, pur facendo ovviamente presente che è impossibile usare qualunque termine di paragone tra l'Udinese e la Juventus, figuriamoci se parliamo di Barcellona e Real Madrid. Questo per dire che il Real Madrid con le sue spese, il Barcellona con la sua campagna faraonica, sono comunque ampiamente all'interno del fair play finanziario. Questo lo diciamo perché in tanti scrivono dicendo che è una presa per in giro, una presa in giro, e facendo riferimento proprio a queste operazioni. Sono fuori in questo momento i club francesi, c'è il caso clamoroso del Monaco in quest'estate, e in questo caso c'è anche un problema di fiscalità, perché nel Principato del Monaco non si pagano tasse praticamente, e questo è diventato un problema anche per il calcio francese, non soltanto per l'UEFA. La domanda delle 100 pistole è se Platini avrà la forza tra 2 anni davvero di applicare le sanzioni. Io credo di sì, tutto mi lascia pensare di sì, anche se non dobbiamo nasconderci dietro quello che è il diritto e dietro le norme, perché ci sono dietro le norme scritte poi tanti movimenti, tante pressioni economiche e politiche per un allentamento Penso per esempio a quello che hanno fatto da poco i club russi, che chiedono di allargare da 45 a 60 milioni la soglia di rosso accettabile. Senti, nel che non sarebbe nemmeno sufficiente. Io penso all'Anci ad esempio, altro che 60 milioni. Assolutamente no, però è un segnale di come ci siano appunto pressioni forti, di come anche in una parte della UEFA ci sia qualche ripensamento sul fronte finanziario, soprattutto in un momento di crisi economica. I soldi li hanno fatti girare gli sceicchi, inutile che appunto stiamo a... Ma sarebbe suicida per un sistema negarsi l'ingresso di investitori da fuori, è questo il concetto, come si fa? Chiaro. Va bene, le regole. C'è una procedura sul ricorso aperta presso la Corte di Giustizia Europea dall'avvocato Di Pon, quello del caso Bosman, che ha messo per conto dei procuratori sotto accusa il settore finanziario, per cui insomma ci sono delle minacce. C'è però un presidente della UEFA come Platini che sul settore finanziario ha giocato tutta la sua carriera. Ci sono soprattutto i grandi club europei che hanno voluto il settore finanziario, qualcuno dice perché maliziosamente volevano in qualche modo cristallizzare la situazione ed evitare che altri grandi club potessero nascere in Europa, altri giustamente sostengono che sono stati proprio grandi club invece a volere queste regole per dettare in qualche modo dei criteri di moralizzazione e quindi evitare queste spese folli, o perlomeno evitare di sicuro stanno alla finestra e osservano. Ci sono telefonate frequenti tra la UEFA, ad esempio il Bayern Monaco risulta che quando Paris Saint Germain e Monaco staccano gli assegni è uno dei club più sensibili a sottolineare che esiste qualche problema. Rummenigge non a caso è il presidente dell'ECA, che è la Confindustria del calcio europeo e dell'associazione che ha lavorato a stretto contatto della UEFA per implementare il settore finanziario, che ricordiamo bisogna ancora di altre regole, ci sono tante storture, tante incoerenze che vanno ancora corrette, però il settore finanziario ha dettato una linea secondo me di sostenibilità nel lungo periodo per il calcio europeo, che sarebbe davvero un peccato e un controproducente a questo punto mollare, e probabilmente si troveranno delle soluzioni di compromesso. Spero però che non vengano applicate sanzioni morbide per i casi più eclatanti e inaccettabili di violazione delle regole. In particolare appunto sono arrivate queste violazioni eclatanti del settore finanziario, purtroppo per Platini, proprio dalla sua dovrà avere il coraggio di andare fino in fondo. Sono molto curioso di vedere insomma quello che succederà nei prossimi mesi. Sono in molti che lo stanno aspettando al varco. Marco, abbiamo finito, non abbiamo parlato volutamente dell'Inter, perché Tohir sarà in realtà secondo me un vero e proprio laboratorio per il calcio italiano. C'è l'esperienza di Pallotta, ma stiamo parlando di altro. Tohir è il primo vero magnate che arriva nel calcio italiano con soldi suoi da investire. Non aspettiamoci una rivoluzione, però sarà un laboratorio che noi avremo la possibilità e la fortuna anche di analizzare e raccontare nei prossimi mesi, anche grazie alla tua collaborazione. Grazie Marco Bellinazzo. Grazie a voi, a presto. Tutti convocati. Ed eccoci di nuovo insieme, abbiamo parlato e tanto di numeri per cercare di spiegare che cosa sta accadendo nel calcio mondiale, non solo nel calcio mercato, che cosa potrà anche accadere nelle prossime due settimane, però il rito che stiamo vivendo rimane sempre e comunque anche una questione di passione, e allora noi abbiamo deciso in questa seconda parte di tutti i convocati di oggi di farcela raccontare questa passione da chi il calcio mercato l'ha vissuto per decenni, l'ha forse anche inventato, l'ha plasmato. Cominciamo con Dario Canovi. Buon pomeriggio Canovi. Buon pomeriggio. Procuratore di calciatori dal 1974, da allora è sempre rimasto nel mondo del calcio, poco più di un anno fa è uscito con storie curiose, aneddoti in un libro, Lo Stagliere del Re. È ancora passione il calciomercato, Canovi? No, non credo, solo da parte dei tifosi. I tifosi hanno ancora questa passione per sapere, questa voglia di sapere e di avere le notizie in anteprima, ne sono testimone io ho un sito su Facebook, sono tempestato di domande da parte dei tifosi per sapere i segreti del calciomercato, segreti che poi tra l'altro non esistono, perché addirittura se ne parla prima che gli operatori di mercato pensino a un'operazione, già se ne parla. A volte vengono proprio costruiti degli scenari che poi magari diventano operazione, il più delle volte non diventano nulla, perché c'è anche questo nel calciomercato. Ma a me è successo spesso, quando ancora c'era Maurizio Mosca che faceva la sua trasmissione, mi chiamava per avere le notizie, e più di una volta ci è capitato di inventare qualcosa per poter raccontare qualche cosa, e quell'invenzione è poi diventata realtà. Ricordo perfettamente di un allenatore che andò a Perugia solo perché Maurizio Mosca ed io pensammo a lui come possibile allenatore del Perugia. Perché poi non è detto che sia tempo perso, alle volte sono bugie bianche, in fondo fanno sognare la gente, non fanno male a nessuno, però il calciomercato è anche nato grazie ai giornalisti che a un certo punto hanno scelto in qualche modo di strutturare questo periodo della stagione, periodo morto, perché è un periodo in cui non si gioca. Io credo sia stata una grande invenzione, perché l'estate degli sportivi italiani sarebbe qualcosa di diverso senza il calciomercato, anche adesso che la passione ha preso il sopravvento sul business. Sono assolutamente d'accordo con lei, è vero, è una sana invenzione. Qual è stata nella sua lunghissima carriera la trattativa più difficile? Una delle più difficili è stata proprio il trasferimento di Thiago Motta, più recente, uno dei più recenti miei trasferimenti. Stiamo parlando del gennaio del 2012? Sì, dall'Inter al Paris Saint-Germain, perché è stata un'operazione che è arrivata al termine a buon fine solo grazie alla volontà di Thiago Motta e a solo la tenacia soprattutto di mio figlio Alessandro, ma non solo di lui, anche un pochino mia, e poi alla pazienza del presidente Moratti, perché se fossi stato io al posto del presidente mi sarei mandato a quel paese più di una volta. Come sono questi sceicchi visti da vicino? Ma io più che da vicino, io non ho visto molti sceicchi, ho avuto modo di incontrare più Leonardo, che tra l'altro era stato un mio assistito tanti tanti anni prima, e Blanc, non l'allenatore, ovviamente il general manager del Paris Saint-Germain. L'ho conosciuto così, diciamo, di quasi di struscio, come si usa dire a Roma, nel senso che l'ho incontrato, ci siamo salutati stretti una mano e poi lì è finito il mio rapporto con lo sceicco. È un calcio da questo punto di vista più professionale rispetto a 20 anni fa, rispetto agli anni 70? Ma non saprei, io non vedo tanti progressi dal punto di vista manageriale, devo dire la verità, almeno non in Italia c'è ancora tanto pressapochismo. Io ho sempre raccontato quello che un giorno mi disse a Lodi, che è una delle sacrosante verità del mondo del calcio. Stiamo parlando degli anni 60, con Allodi. Beh, forse no, 69, perché io ancora ero giovane del 60, no, del 75. E lui un giorno mi disse, sai, il calcio è una strana attività dove vai a letto muratore e ti svegli architetto. Ed è una delle profonde verità di questo calcio, cioè un po' del dilettantismo che diviene professione. E questo causa spesso grandi danni. Ci sono tanti che si improvvisano ancora, anche adesso che c'è l'albo, dovrebbero esserci i controlli. Anche la FIFA ha cercato in qualche modo di disciplinare anche la vostra professione. Ma io sulle volontà della FIFA e di disciplinare ci credo molto poco, onestamente, perché basterebbe leggere i giornali, aprire i giornali e poi fare neanche le indagini, perché ci sono dichiarazioni tra virgolettate di presunti agenti, che agenti non sono, di intermediari, di mediatori, di faccendieri del calcio che quotidianamente appaiono con interviste molto, molto manifeste, direi, e non mi pare che la FIFA abbia mai fatto molto per ovviare a questo problema, anzi direi di più, che ci sono molte grandi società che purtroppo si avvalgono dell'opera di questi faccendieri, e questo è ancora molto più grave, ed è questo forse uno dei motivi per cui la FIFA non interviene seriamente. Ha ragione chi dice che oggi uno dei problemi del calcio è che spesso i destini delle società sono in mano a questi intermediari. Diventa difficile alle volte scindere proprio la possibilità di valutare anche i risultati di un singolo club. Ci sono procuratori che lavorano in esclusiva con una squadra, che portano giocatori soltanto a una squadra, che sono quasi a libro paga. Adesso non stiamo a fare nomi, però gli esempi io credo siano abbastanza noti a tutti. Questo, se vogliamo, è un elemento distorsivo del mercato, è un elemento forse distorsivo anche della concorrenza che può esserci fra di voi? Ma sicuramente sì, purtroppo è anche abbastanza vero che molti procuratori sono veramente a libro paga di alcune società, e questo credo che sia molto grave, molto causa dei grandi problemi, e non solo di concorrenza o di libera concorrenza, io parlo anche nell'aumento di costi, perché poi non si riesce a capire perché alcune società si debbano avvalere di alcuni agenti per arrivare a concludere degli affari con altri club quando potrebbero farlo direttamente. E non è che l'agente che interviene sia qualcuno che assiste un agente del calciatore che loro vorrebbero ingaggiare, ma un estraneo, un terza persona, un vero e proprio intermediario. E allora c'è da capire perché dell'esistenza di questo intermediario. Ma lei se l'è data una risposta? Sì, sì, me la sono data tante volte. Credo che sia un ovvio sistema per arrivare a pagare somme a qualcuno che magari non avrebbe titolo per prenderle. Ho letto da qualche parte che tra le trattative più difficili, torniamo un po' indietro nel passato, con la nostra macchina del tempo, lei annovera anche quella per portare Cerezo alla Sampdoria, ce la racconta? Sì. Ma quella è stata abbastanza divertente. Cerezo doveva andare al Milan, era già fatta con il Milan, era già tutto concluso, poi all'ultimo, però il Milan si era riservato il diritto di risolvere il contratto, e lo risolse perché Lidl non voleva Cerezo, non perché non volesse Cerezo, ma perché non voleva allontanare Wilkins da, mi pare si chiamava Atway o qualcosa del genere, sì. Allora provai con la Sampdoria, fui invitato dall'allora presidente Mantovani a casa sua vicino Genova, arrivai con Cerezo. Noi chiedemmo una certa cifra, che poi era la stessa cifra che ci aveva offerto il Milan, che qui avevamo concluso col Milan, e il presidente Mantovani ci disse no, mi dispiace, io a questa cifra non posso arrivare, arrivo a quest'altra cifra, mi pare fossero 700-800 milioni di allora. Torino Cerezo rimase un pochino così, dice no presidente, non posso accettare, però posso fare una telefonata a Rosa, mia moglie, perché è giusto che sia si decide in due a decidere. Il presidente ovviamente gli disse, lo fece accomodare nello studio, sentì marmeggiare e parlare al telefono per una decina di minuti Torino Cerezo, anche perché non c'erano i cellulari, gli prestò fisicamente il telefono. Posso fare una telefonata significa mi fa fare una telefonata, perché ormai molti che ci ascoltano sono abituati al telefonino, allo smartphone, stiamo parlando di un'altra epoca. Sì, ahimè, e lui andò di là e ritornò e disse mio presidente. Chiaro che tra l'altro quel giorno il presidente Mantovani fece venire tutti i quattro suoi figli, perché erano tutti grandissimi tifosi di Torino Cerezo. È chiaro che ci fu una manifestazione di gioia notevole da parte di tutta la famiglia. Ci allontanammo, andammo verso l'aeroporto, tra l'altro con una corsa che credo che sia stata la più folle corsa che io abbia mai visto, con l'autista di Mantovani che era ci mise 10 minuti per attraversare tutta Genova. Arrivammo durante il tragitto, io dissi a Torino, meno male che Rosa ti ha dato un consiglio saggio. E lui mi disse, ma io non l'ho trovata Rosa. Aveva deciso lui? Sì, aveva avuto modo di pensare che tutto sommato era meglio che restasse, che firmasse con la Sampdoria. Infatti rimase lì per, credo, per 5 o 6 anni. Sì, sicuramente togliendosi delle grandissime soddisfazioni. Mantovani, Dino Viola, altro presidente che lei ha conosciuto direttamente, erano davvero gentiluomini o li tratteggia così il ricordo, la leggenda, quello che accade per tanti in fondo col passare del tempo? No, era un calcio diverso. Io devo dire la verità, nei primi anni della mia professione, anche se i procuratori, allora così ci chiamavano, non eravamo molto amati, non eravamo molto ben visti, per cui c'era una certa diffidenza nei nostri confronti, ma io ho avuto sempre rapporti con molti presidenti in cui bastava veramente una stretta di mano per concludere un affare, cosa che adesso non bastano neanche i documenti. Ce n'è ancora qualcuno con cui basta la stretta di mano o no? Ma io onestamente in questo momento personalmente non ne conosco nessuno con cui farei un affare solamente con una stretta di mano. Non solo, ma ci penserei anche due volte a fare un affare con documenti scritti, che mi è successo più di una volta di dover arrivare in un giudizio pur avendo un contratto ben stipulato e ben redatto. Certamente. Abbiamo ancora meno di un minuto, Dario Canovi. Ho letto da qualche parte che lei è responsabile, colpevole, stiamo scherzando ovviamente, del fatto che Stramaccioni sia diventato allenatore. Se ce lo racconta, poi la salutiamo. Ma io l'ha raccontata Stramaccioni veramente, perché io onestamente non me la ricordo. Non se lo ricorda? No, me lo ricordo, adesso poi me lo sono ricordato, perché Stramaccioni era un giovane calciatore molto bravo e che aveva da fronte a sé una carriera abbastanza felice di fronte. Purtroppo si ruppe due o tre volte il ginocchio, per cui smise di giocare. Sua madre, che credo che fosse una professoressa, se non altro, credo di latino, mi chiamava spesso preoccupata di questo fatto, e io gli dissi alla madre, dico: guardi signora, suo figlio ha la veramente la capacità di essere un bravo allenatore, perché era uno che conduceva la squadra pur essendo il più giovane di tutti, è quello che conduceva la difesa. E quindi gli consigliò di provare, visto che infatti probabilmente col calcio aveva chiuso, col calcio giocato di un certo livello. Smise molto presto, e difatti questo lui lo ha raccontato in una serie di interviste che ha fatto quest'inverno. Io lo vedo spesso Stramaccioni e sono convinto che è e sarà un grande allenatore. Sì, io sottoscrivo questo giudizio. Poi aveva iniziato direttamente con l'Everest, si può anche scivolare, ma avrà modo certamente di rifarsi. Grazie a Dario Canovi. Grazie a voi, buona serata. Tutti convocati. Siamo arrivati quasi in fondo a questa nostra cavalcata nel mondo del calciomercato, numeri, non solo, storie, aneddoti. Saluto il re dei procuratori italiani, Claudio Pasqualin, buon pomeriggio. Ricambio il saluto, ma non esageriamo, questa è un'iperbole immeritata e poi porta anche sfiga. Immeritata però è scritto ovunque, eh? Re dei procuratori italiani, collezionista di cimeli, di grandi calciatori e di aneddoti, e qualcuno lo vogliamo raccontato questo pomeriggio. Parlavamo prima con Dario Canovi, diceva il calciomercato non è più questione di passione, cioè lo è per gli allenatori, per i tifosi che continuano a sognare, però purtroppo è cambiato molto per noi addetti ai lavori, è vero o no? Sì, è verissimo quello che dice Dario, allora erano tempi peraltro di vacche grasse, ora le stesse vacche sono magrissime e come diceva quell'impresario di avanspettacolo alle sue ballerine, bambole non c'è una lira, anzi non ci sono più gli euro, e quindi il discorso è in un contesto assolutamente diverso, molto più triste. E quindi dobbiamo pensare con nostalgia ai bei tempi andati. Sì, ho l'impressione che voi procuratori, rispetto a quanto accadeva in passato, oggi dobbiate essere anche un po' psicologi, ci sono le grandi star che continuano a guadagnare cifre impossibili, leggiamo anche sui giornali in questi giorni lo stipendio di Cristiano Ronaldo, Messi, però in realtà io ho l'impressione che a tanti voi dobbiate spiegare che certe cifre non sono più raggiungibili. Sì, psicologi, educatori, dobbiamo predicare la moderazione, termine che all'epoca potevamo anche permetterci di misconoscere, no? Invece adesso dobbiamo inculcare ai nostri assistiti, ai nostri giovanotti, il primario principio, come dire, la prima cosa è averli se poi li pattuisci, no? Quindi devi come dire, far presente loro che alle volte il contesto professionale con una squadra, e non sono tantissime, che sia affidabile, che possa poi rispettare gli impegni, è preferibile a chi magari te li promette e poi succede anche che non te li dà. Capita spesso e non solo nelle serie minori, quelle semidilettantistiche? No, ecco, per fortuna ci fermiamo alle soglie della Serie B. Ci fermiamo lì. Ecco, ma lì qualche, anche in B, qualche problema c'è decisamente, anche se i guadagni medi della B sono crollati rispetto a, non dico 10 anni fa, ma 5, insomma, si sono praticamente dimezzati e oggi sono pochi, al di là del principio del salary cap, definiamolo così, introdotto appunto in Serie B, lo stipendio medio si aggira, difficilmente supera, meglio dire, i 100-150 mila euro al massimo. E che sono sempre grandi soldi per chi poi tutte le mattine è abituato ad alzarsi a fare l'impiegato, e 150 mila euro restano comunque dei bei soldi, però noi lo abbiamo sempre detto, ci siamo anche attirati le antipatie degli amici da casa quando nei giorni scorsi parlavamo di Cristiano Ronaldo, c'è la legge del mercato, non si può fare il paragone tra un operaio e uno dei due o tre giocatori più forti al mondo. Lo stesso vale per chi in Serie B comunque significa che è un protagonista con dei talenti importanti, quindi noi non facciamo questo discorso. Detto questo, io dico però che un po' di sana dieta non ha fatto male in generale al nostro calcio, ma non solo, perché succede e succederà lo stesso anche altrove. Sì, è così, poi scoraggia peraltro vedere che rispetto a questo problema, alla crisi in generale del nostro calcio, le cosiddette istituzioni, insomma, fanno poco o niente. Mi sembrerebbe, come dire, primaria l'esigenza di ridurre l'area professionistica, per esempio, e strutturare i campionati in maniera più accettabile. Noi abbiamo quasi 3.000 calciatori professionisti, quando all'estero, in Inghilterra non più di 500, altrettanti in Germania, meno in Francia. Cioè, bisognerebbe prendere atto di questa realtà e ristrutturare i campionati riducendo l'area professionistica, appunto, e strutturando la questione in maniera diversa. Però la federazione, con la lentezza dell'elefante, ha cominciato a incidere in maniera risibile solo nella cosiddetta terza divisione, nella Lega Pro, come si chiama adesso, ma nella Serie C, che tutti noi sappiamo. Certo, la Serie C è veramente l'inferno dei dannati. La Serie C di un tempo. Si dovrebbe partire dalla testa, ad esempio togliendo un paio di squadre dalla Serie A e poi a cascata. Però già si sa che fino al 2015 non si fa nulla, perché tutti i format sono venduti alle televisioni. Sì. E poi chissà. È il mercato, questo lo è stato anche negli ultimi anni, dei bonus sotto mille forme, i passaggi, fra un po' verrà fatto il bonus non solo per le presenze, ma io non lo so, per le presenze in allenamento, non so per cosa. So che Claudio Pasqualin all'inizio degli anni 90, forse per primo, fece inserire una penale per costringere l'Inter ad allungare il contratto a Nicola Berti più di quanto l'Inter stesso intendeva. Sì, Berti sarebbe stato l'unico atleta che prendeva parte a quel mondiale, era il mondiale del 94. Quello negli Stati Uniti. Sì, l'unico mondiale, l'unico giocatore senza contratto, perché il suo contratto era in scadenza e la lotta con il buon Pellegrini, presidente dell'Inter all'epoca, era feroce, quindi diciamo così che mi inventai il discorso. Il problema era 2 o 3 anni, no? Per il terzo anno l'Inter si voleva limitare a un diritto di opzione a suo favore, che noi alla fine concedemmo, però ottenendo una penale nel caso l'opzione non fosse stata rispettata. Questo per dire che non si inventa nulla, al limite si evolve, però anche le tante formule con cui oggi le società abbattono i costi fissi, per quanto poi spesso sono, e stiamo parlando di bonus davvero ridicoli da raggiungere, perché in realtà è solo il modo per scrivere diversamente uno stipendio già programmato. Sì. In realtà viene tutto dal passato. 1991, Dino Baggio e desideri all'Inter per liberare Trapattoni. Anche quella fu una prima volta. Non è capitato molte altre volte dopo quell'esperienza, però fu un caso che fece scalpore. Adesso gli allenatori hanno un valore, spesso una clausola già scritta. Sì, effettivamente, sì, ricordo, Ma penso un po' che ormai si perde davvero, si sfuma i contorni nella nota dei tempi questa vicenda, ma ce ne furono. Adesso non so se verrai a citarmi Gigi Lentini, ma credo che sia quello il periodo, quello proprio il 91. Sì, stiamo parlando all'inizio degli anni 90. All'inizio degli anni 90. Beh, io ero talmente assorbito dal cosiddetto caso Lentini che ebbi il tempo di accorgermi di striscio, insomma, del caso Baggio, Desideri e altre questioni di quel genere lì. Lo ricorderete, credo. Il caso Lentini fu veramente una cosa molto impegnativa dal punto di vista professionale. Il giovanotto era al centro dell'interesse dei due uomini, diciamo così, più potenti d'Italia, no? Da una parte l'avvocato, nel senso di Agnelli. E dall'altra Berlusconi, che tra l'altro si era appena affacciato, aveva già cominciato a vincere, però sì. si era appena affacciato al mondo del calcio. Sì. Mi fa venire in mente questo parallelismo di lotte fra grandi famiglie, ad esempio la contrapposizione tra i Della Valle e quello che è oggi la famiglia Agnelli-Elkan. Forse è l'unica contrapposizione che può essere, ad esempio, paragonata a questa lotta tra grandi famiglie di cui stiamo parlando all'inizio degli anni 90. Ma il mercato è fatto di queste realtà, di queste contrapposizioni, di eventuali simpatie, complicità, rapporti amicali piuttosto che pessimi. È così, alla fine sono gli uomini a farlo, no? Quindi quando parti un po' prevenuto nei confronti dell'interlocutore, o quando vuoi umiliarlo, o comunque quando ti ostini a non voler chiudere perché non vuoi dargli soddisfazione. E quindi anche nell'immaginare quali saranno le operazioni di mercato, l'operazione mentale che deve fare il buon operatore è immaginare subito quali sono i rapporti ai vertici di quei contesti lì, no? E alcuni rapporti, notorio, sono conclamati, come giustamente sottolineavate, tra Della Valle e la Juve, per esempio, non si può dire che ci sia simpatia, di sicuro, insomma. No, non c'è dubbio, e non è solo una questione calcistica, probabilmente affonda anche le radici. Infatti. In altre spiegazioni, siamo quasi in chiusura, Pasqualin, mi piaceva però farle raccontare un'altra cosa. Io so che lei spesso ha parlato anche della difficoltà di spiegare agli stranieri che cosa è stato, che cos'era, forse che cos'è ancora il mercato italiano. Lei ad esempio ha avuto la procura di Birov, se non sbaglio. Sì. Non è facile, vero? No, non è facile, al punto che io consigliai questo giovanottone bello, alto, accattivante, dalla parlata fluida, poteva parlare inglese, italiano, aveva persino con sé un vocabolario di italiano friulano. No, non per niente è un alto dirigente della federazione tedesca, non è un caso. Ma nessuno sapeva chi fosse questo Birov, sembrava importato per caso, insomma, no? I maligni dicevano che, essendo il di lui papà il direttore generale dell'Enel tedesca, ed essendo il presidente dell'Inter Pellegrini nel settore della ristorazione, aveva interessi anche in Germania, allora l'Inter comprava sempre in Germania. Il fatturato certamente della Pellegrini di ristorazione, che ebbe in appalto anche i pasti per l'Enel tedesca, ebbe un incremento, insomma, e in cambio il giovanotto arrivò all'Inter, così diceva. Lei cosa consigliò al giovane Birov? Io lo consigliai di venire con me a fare il peripatetico per i corridoi del noto albergo milanese. A farsi una camminata. Al punto che alla fine dell'ennesimo su e giù il giovanotto prorompe, come si dice, se ne uscì, ecco meglio, in un perentorio: ma questo essere mercato di vacche, disse con il suo accento italo-tedesco. Meraviglioso, diciamo la verità, aveva ragione lui. Effettivamente un pochino. Sì, ma un pochino sì, perché anche dal punto di vista estetico, diciamo così, non era il massimo quel contesto là, no? Pensi che prima ancora si parlava di donnine e champagne, no? Perché il contesto era adesso probabilmente il contesto è un po' più freddo, è un po' più professionale, si spera, però un po' mercato delle vacche lo è ancora, questo lo dico io. Grazie a Claudio Pasqualin. A voi, buona continuazione. Grazie a Claudio Pasqualin, noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Franco Piantanida, autore di questa puntata, Carmelo Lauricella e Valeria Bernardi in regia. L'appuntamento è domani a partire dalle ore 14. Un saluto da Giovanni Capuano.